4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata, ancora una volta amici dei motori, benvenuti al programma di motori di Radio 24 insieme a Quattro Ruote dal maggio 2001, ogni sabato in onda qui sulla nostra, sulla vostra emittente, per soddisfare tutti i dubbi e tutte le esperienze che possono essere anche approfondite attraverso gli esperti che talvolta da singoli cittadini è difficile raggiungere, no? Per questo ci siamo noi, più facilmente raggiungibili attraverso due indirizzi. Il primo è il nostro sito, ormai lo conoscete bene, radio24.it. Nella sezione programmi, il quarto, se non sbaglio, programma è Quattro Ruote e Dintorni, scritto con il numero davanti, mi raccomando. E poi, con le stesse specifiche, il nostro indirizzo email, quattroruote@radio24.it. La puntata è ricchissima, inizieremo subito dalla prova della Skoda Superb, il 2000, provata insieme a Marco Ghezzi di Quattro Ruote, che tra pochissimo ci raggiunge. Poi parleremo insieme alla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale di una bella iniziativa in giro per l'Italia, per far girare e far guidare i motorini ai minorenni prima di prendere il patentino, cosa che non è ancora prevista dalla legge. Si può prendere il patentino senza guidare un motorino, purtroppo, aggiungo io, ma ne parleremo dopo. La spedizione Oltre è arrivata agli Urali, stanno per raggiungere i 6 mezzi dell'Iveco, il punto più difficile della spedizione. Sentiremo uno dei membri della spedizione e poi il mercato dell'auto con il professor Paolo Malagodi, il nostro avvocato Lievore, con un'altra iniziativa molto interessante sui documenti da portare in viaggio per ogni automobilista, e chiuderemo con l'inchiesta sulle assicurazioni online, giunta oggi alla terza puntata. Ci sarà Zuritel insieme a noi. Subito allora il buonasera va a Marco Ghezzi di Quattro Ruote. Ciao Marco. Buonasera a tutti. La macchina di cui vogliamo parlare oggi è una Skoda, è una Superb, è l'ammiraglia del gruppo che fa capo all'Audi e alla Volkswagen. Si tratta di un'auto di grandi dimensioni, di oltre 4,80 m, adatta per delle famiglie importanti, delle famiglie grandi, ma anche per chi magari vuole avere l'autista, perché è un'auto che soprattutto a livello dei posti posteriori offre una disponibilità di spazio elevatissima, e anche per quello che riguarda il bagagliaio, dimensioni e spazio in abbondanza, con una particolarità di cui magari parliamo dopo, cioè del portellone che cambia la sua fisionomia a seconda delle esigenze. È molto interessante questa chicca, la approfondiamo tra poco. Prima però presentiamo quest'auto, vi ricordo la Skoda Superb 2000 TDI 140 cavalli Elegance, questo è il nome preciso del mezzo provato insieme a Marco, attraverso questa scheda. Skoda Superb 2000 TDI 140 cavalli Elegance. Altro che ammiraglia di serie B. Per il design, i contenuti tecnici e gli equipaggiamenti, sta conquistando un pubblico sempre più grande. E non solo per la linea azzeccata. Le finiture, le dotazioni di bordo e il livello di comfort, infatti, non hanno nulla da invidiare alle berline con passaporto europeo o giapponese. Nome: Skoda Superb 2000 TDI 140 cavalli Elegance. Carrozzeria: 5 porte 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,83 m, larghezza 1,81 m. Motore: trasversale turbo diesel a 4 cilindri, cilindrata 1968 cm3. Potenza: 140 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce. Prezzo: 31.291 euro. Ecco, partiamo proprio da quest'ultima specifica. Marco, ti chiedo di farci capire in che segmento esattamente, anche economico, si inserisce questa Skoda Superb. Diciamo che è un segmento un po' particolare, perché è a cavallo tra le grandi, le ammiraglie e le medie. Diciamo che le concorrenti dirette sono una Citroen C5 piuttosto che casa Audi Volkswagen, una Passat. Adesso dobbiamo capire esattamente come si comporta sulla strada questa Skoda. Che sensazioni hai avuto guidandola? Ma nonostante le dimensioni, è un'auto che si guida molto bene perché è agile, ha una bella caratteristica, ti dà un'impressione di sincerità con lo sterzo. È un'auto che si guida tranquillamente anche in città e che ha un motore piuttosto elastico che le dà quella gradevolezza che di solito si ha sulle vetture più piccole, nonostante questo motore non sia di ultimissima generazione perché è ancora un iniettore pompa. Adesso il gruppo Volkswagen, Audi e anche Skoda utilizza il Common Rail. Decisamente, però probabilmente arriverà nelle prossime versioni, anche vero che su queste auto con queste prestazioni tutto sommato, anche se è un obbligo più di marketing, avere le ultime iniziative tecnologiche, le ultime avventure in cui i designer e gli ingegneri riescono a dare il meglio di sé, però spesso mi ricorda un po' i vecchi freni a tamburo su alcune moto che oggi hanno tutte il freno a disco anche quando non è necessario, insomma questo va detto. Ascolta, parliamo di quella chicca di cui hai anticipato qualche cosa per quanto riguarda il portellone posteriore. Sì, è l'unica in questo momento, è la prima volta che si presenta una caratteristica, un dispositivo di questo tipo, cioè la vettura può avere o il portellone o il portello, il cofano del bagagliaio, come se fosse una due volumi o una tre volumi, quindi se si hanno da caricare oggetti di piccole dimensioni si può aprire normalmente il piccolo portello come se fosse appunto il bagagliaio di una tre volumi, oppure se si ha dei corpi più grandi, lunghi, si può sfruttare la possibilità di aprire tutto il portellone e quindi di avere molto più possibilità di una soglia più ampia. Allora, sentiamo insieme la pagella con la quale diamo i voti a questa Skoda e poi torniamo per il riassunto della prova. Due pregi e due difetti. Posto guida. Molto accogliente e bene impostato. Le regolazioni del sedile sono tutte elettriche, compresa quella lombare. Manuali quelle del volante, ma ampie e precise in profondità e in altezza. Leggero disallineamento schienale sterzo. Voto 4 stelle e mezzo. Finitura. Curata nei dettagli, in particolare nell'assemblaggio della componentistica. I materiali, però, specie le plastiche, non sono dello stesso livello di quelli adottati dalle ammiraglie più prestigiose. Ben fatti i sedili. Voto 4 stelle. Comfort. Davvero molto comoda per la felice combinazione di un'efficace insonorizzazione e di un pregevole lavoro delle sospensioni. Grande attenzione alle esigenze dei passeggeri posteriori, facilitato anche il loro accesso. Voto 4 stelle e mezzo. Motore. Troppo piccolo in rapporto alle dimensioni della vettura? Sulla carta forse sì, in realtà va benissimo. È abbastanza pronto e spinge con decisione quando si affonda il piede sull'acceleratore. Ancora versione iniettori pompa. Voto 4. Su strada. Disinvolta, malgrado la stazza, appoggia sicura in curva e segue bene la traiettoria. Moderato il rollio. Deciso l'intervento del controllo di trazione per contrastare la tendenza al pattinamento. ESP discreto, ma un po' lento. Voto 4 stelle. Allora, Marco Ghezzi, per concludere la prova, due pregi e due difetti sinteticamente. Il pregio, direi, sostanzialmente il principale è quello dell'abitabilità posteriore, perché questa vettura è un'auto che dietro offre la possibilità di allungare le gambe anche senza toccare il sedile e lo schienale del sedile anteriore. Il difetto principale, secondo noi, è un po' la visibilità, perché la forma del montante anteriore sinistro non garantisce la massima visibilità, soprattutto in corrispondenza delle rotatorie. Altro pregio è il consumo, che è molto basso rispetto alle dimensioni e diciamo alle prestazioni della vettura. Certamente. Senti Marco, grazie davvero. L'appuntamento con te è per la prossima prova insieme a tutti gli esperti di Quattro Ruote. Grazie e buona serata, Marco. Grazie. Quattro Ruote e dintorni. Allora, siamo giunti al progetto Icarus Ania Campus. Come vi accennavo pochi secondi fa, con noi c'è il segretario generale della Fondazione Ania per la sicurezza stradale. Già nella sua definizione porta poi il concetto preciso di cui parliamo adesso, Umberto Guidoni. Dottor Guidoni, bentornato. Bentrovati a voi e buonasera a tutti. Prendiamo spunto dal 3 marzo, fra pochi giorni, quindi a Trieste ci sarà una delle tappe su tutto il territorio nazionale di questo progetto che si chiama Icarus Ania Campus. Lo vuole descrivere lei, così poi parliamo di che cosa succede esattamente all'interno di queste tappe? Sì, il progetto Ania Campus va in combinata con il progetto Icarus, che ha qualche anno in più rispetto ad Ania Campus. E l'obiettivo globale del progetto è quello di aumentare i livelli di sicurezza stradale attraverso l'educazione nei confronti dei giovani. Icaro è una rappresentazione teatrale, Ania Campus invece consiste in una vera e propria prova pratica di guida dei ciclomotori, oltre che in una infarinatura teorica su quelle che sono le regole di guida e l'abbigliamento da indossare. Senta, dottor Guidoni, giusto per arrivare poi al centro della polemica, se così vogliamo chiamarla, ma forse è una parola troppo forte, però ormai la questione è vecchia, purtroppo. In Italia un minorenne per guidare il ciclomotore da poco tempo deve prendere un patentino ed è già un passo avanti. La cosa curiosa è che per prendere il patentino deve svolgere un'attività, chiamiamola orale, quindi di studio, dimostrare di conoscere alcune delle regole importanti del codice della strada e poi gli viene consegnato questo brevetto, questo patentino che gli consente di guidare. Potrebbe sembrare tutto a posto se non fosse che il motorino non l'ha mai guidato prima. Esattamente, guardi, questo è un paradosso che noi sinceramente non riusciamo a capire, perché abbiamo anche fatto uno studio per cercare di dimostrare al legislatore la necessità di introdurre l'obbligatorietà della prova pratica per il conseguimento del patentino. Abbiamo dimostrato che nei paesi europei dove questo è accaduto l'incidentalità sulle due ruote è diminuita, quindi chiaramente la formazione non è l'unico elemento che diminuisce l'incidentalità, ma c'è una correlazione tra formazione pratica e diminuzione dell'incidentalità. Quindi noi riteniamo che sia assolutamente giunto il momento di introdurre la prova pratica, perché la prova teorica è assolutamente insufficiente e la dimostrazione di questo l'abbiamo all'Ania Campus. Quando io vedo i ragazzini di 14 anni che approcciano per la prima volta ad un ciclomotore, le garantisco che molti di questi fanno fatica a mantenersi in equilibrio, cioè l'istruttore deve stare proprio accanto per cercare di non farli cadere, insomma. Non fatichiamo a crederlo, perché spesso i ragazzi sono amanti poi delle due ruote, spesso approcciano il motorino già capaci o attraverso la bicicletta o attraverso prove in condizioni private di guidarli, altre volte invece li si vede barcollare in mezzo alla strada con pericolo per sé e tra l'altro anche per gli altri. Perché secondo lei c'è questo freno proprio in un settore in cui invece inserire una prova pratica in più, oltre che far bene alla sicurezza, può essere anche in qualche modo conveniente a chi lo organizza? Io credo che nel momento in cui si decise di introdurre la sola prova teorica, e cioè nel 2004, perché prima del 2004 non c'era neanche quella, si poteva guidare un ciclomotore senza alcun tipo di certificato di idoneità, quindi diciamo che nel 2004 c'è stato un primo passo avanti e probabilmente si intendeva arrivare con una certa gradualità, anche per non impattare in maniera troppo significativa sull'industria che in qualche modo produce questi mezzi, ma io credo, e ne ho certezza anzi, che l'industria è fortemente favorevole anche alla prova pratica, perché induce nelle famiglie un senso di maggiore sicurezza, soprattutto per i propri figli che per la prima volta guidano un mezzo del genere in città caotiche come Roma, Milano, che Napoli, insomma, dove il traffico sicuramente è intenso e chi va su un mezzo a due ruote è un soggetto vulnerabile. Molto bene, l'appuntamento allora è per Trieste 3 marzo, ma poi sui siti competenti si trovano tutte le altre date per poter provare gratuitamente un motorino sotto l'occhio esperto di chi vi aiuta a farlo e vi insegna a farlo. Questo è un modo per guidare il motorino in totale libertà, ma in totale sicurezza. Grazie alla Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale e al suo segretario generale Umberto Guidoni. A presto. Grazie a voi e buona serata. Allora, adesso passiamo ad un altro argomento, che è quello che avete già scoperto più di una volta su Radio 24. Il gruppo Sole 24 Ore appoggia mediaticamente la spedizione Oltre in più modalità. Una di queste è la radio. 6 mezzi preparati da Liveco ad hoc stanno attraversando una delle regioni a nord dell'Europa più difficili e per la prima volta si compirà su mezzi gommati, considerate la neve, il ghiaccio che ci sono da quelle parti, il famoso passaggio a nord, insomma, per portare questi 6 mezzi dall'altra parte, in quel punto magico in cui con una sola occhiata il continente russo e il continente americano appaiono dalla stessa parte. Al telefono c'è il medico AC Global, partner della spedizione Oltre, il dottor Giacco Bellatorre. Buona serata. Buonasera dalla Russia, a lei e a tutti gli ascoltatori. Intanto vorremmo un aggiornamento su dove siete in questi giorni, a che punto è arrivata la spedizione, dottore. Allora, in questo momento ci troviamo sostanzialmente ai piedi degli Urali, nella zona più a nord della catena, e siamo partiti stamattina dalla città di Ilinka, dove siamo stati per qualche giorno, e in questo momento siamo in difficoltà perché la pista è difficile, la neve è profonda, è difficile andare avanti. Stiamo avanti. In questo momento stanno arrivando dei cingolati che ci aiuteranno un pochino a muoverci. È invalicabile la zona che stavamo cercando di battere. Senta, dottore, a proposito, si sente anche dalla linea, tra l'altro non perfetta, ma questo è il bello dei collegamenti a migliaia di chilometri di distanza. Ci fa capire, abbiamo parlato tante volte dei mezzi, evidentemente, in questa trasmissione. Io però sono curioso di sapere anche come reagiscono i corpi delle persone. Lei è un medico, di che cosa avete bisogno, soprattutto quando le temperature si aggirano intorno ai meno 20, meno 30, meno 37 gradi centigradi? Ovviamente il problema principale è il freddo in questo caso, e le conseguenze principali del freddo possono essere congelamenti e assideramenti. I congelamenti sono il congelamento di una parte del corpo, generalmente delle estremità, mentre l'assideramento è l'abbassamento di tutta la temperatura corporea. Sono i due problemi principali legati al freddo. Bene, un grazie davvero dalla Russia. Sono tanti chilometri che ci separano e anche le condizioni del tempo rendono difficili ovviamente i collegamenti, ma queste sono le vere spedizioni. In particolar modo questa è Oltre. Il dottor Giacco Bellatorre, medico dell'ACI Global, partner della spedizione, è stato con noi per qualche minuto e torneremo su questo argomento anche attraverso il sito e le altre trasmissioni radio24.it. Grazie e buona serata, dottore. Buonasera dalla Russia. Voi sapete con quale attenzione, con quale precisione cerchiamo di monitorare il mercato dell'auto in questo periodo. Sono circa 6 mesi che si soffre tanto da queste parti, dicono le case automobilistiche, stanno facendo tanti sforzi. L'ultima è per l'imminente Salone di Ginevra, su cui abbiamo fatto molti ragionamenti sabato scorso. Vi ricordo che tra l'altro il 5 Ginevra apre per il pubblico fino al 15 marzo, con tantissime novità che trovate ancora su radio24.it e ancora nella prossima puntata. Però all'inizio di ogni mese o alla fine, negli ultimissimi giorni come oggi, cerchiamo di capire come se la sono cavati i concessionari vendendo le auto nuove, quindi si parla di immatricolazioni di nuove auto, con il professor Paolo Malagodi, analista del Sole 24 Ore. Professore, buona serata. Salve Roberto. Facciamo subito come quando il medico deve dare le brutte notizie, oppure belle, chi lo sa. Il mese di febbraio, con un giorno di anticipo, che notizie, anzi 2 giorni di anticipo, che notizie ci porta? È un po' come avere un bicchiere davanti, può essere visto mezzo pieno e mezzo vuoto. Il dato preciso si avrà, come gli ascoltatori sanno bene, soltanto alle ore 18 di lunedì, quando, primo giorno lavorativo del mese, il Ministero dei Trasporti darà il numero di febbraio, che è un mese che per una certa metà è stato mezzo vuoto, perché il decreto sugli ecoincentivi che il governo ha varato il giorno 8 è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale soltanto l'11 febbraio, ed è da quella data che i consumatori, oltre che i concessionari, hanno letto nero su bianco come funzionano questi che quattro ruote nel numero di marzo chiama gli incentivoni, e da lì in là c'è stata un po' la corsa, se non all'acquisto immediato, alle concessionarie per farsi fare un preventivo, soprattutto sulle vetture a GPL che con una rottamazione possono arrivare ad avere un bonus di 3.500 euro, sommando le due cose, e quelle a metano, anche queste con minime emissioni, meno di 120 grammi chilometro di anidride carbonica, fino a 5.000 euro per rottamazione e acquisto di una vettura a metano di questo tipo, o elettrica o ibrida. È chiaro che i concessionari sono stati beneficiati da questo provvedimento e sì, nella seconda metà del mese il ritmo del mercato è cambiato, quindi abbiamo avuto il bicchiere mezzo pieno. Ecco, quindi già subito ad azione corrisponde, come sempre in realtà, una reazione, ma in questo caso la reazione che c'è stata è proporzionale alla grandezza, alle dimensioni, alla quantità di incentivi erogati questa volta o no? Sì, perché se pensiamo che nella prima metà del mese le immatricolazioni erano poco più di 46.000 e arriveremo, poi vedremo il dato del Ministero, a 164.000 alla fine di questo mese, con il dato che verrà comunicato lunedì, vediamo che in realtà in altri 10 giorni relativi, nelle ultime 2 settimane, abbiamo messo assieme quasi 120.000 unità, quindi la risposta c'è stata ed è stata proporzionale allo strumento. Molto selettiva la domanda, ecco, non è che ci sia stata un'esplosione generalizzata della domanda, molto selettiva sulle vetture che beneficiano del ecoincentivo, non solo per la rottamazione, ma tanto più se si abbina al GPL o al metano. Decisamente. C'è un settore, un segmento meglio di auto che soffre particolarmente o che sparirà dal mercato? Beh, non è che tenda a scomparire totalmente un segmento o comunque una versione. È certo che i piccoli diesel che fino adesso, parlo ad esempio del Multijet 1300 che equipaggia non solo la Panda o la Punto, a questo punto non sono richiesti. I consumatori dicono: ma perché debbo rottamando acquistare soltanto un piccolo diesel quando ho 1500 euro? Perché se invece prendo la versione a GPL arrivo magari a 3500 o a metano 5000. E quindi i piccoli diesel soffrono molto di questa domanda selettiva e le case dovranno provvedere per loro, ovvio, certo, a fare delle offerte particolari, altrimenti la gente non li compra. Decisamente. Ruote e dintorni. Proseguiamo dunque la chiacchierata con il professor Malagodi sul mercato, sullo stato di salute del mercato. Abbiamo sentito le buone notizie, una volta tanto, dovute agli incentivi erogati dallo Stato. E a questo proposito, professore, volevo fare con lei l'ultimo ragionamento su che cosa avverrà nei prossimi mesi. Questa reazione in positivo di cui abbiamo parlato oggi proseguirà, è la prima domanda, e per quanto, secondo lei, la seconda? Già dal consuntivo di febbraio, perché non va dimenticato che se le immatricolazioni, sia pure concentrate nelle ultime due settimane, riescono a migliorare un po' il trend negativo che avevamo avuto in gennaio, gli ascoltatori ricordano, avevamo avuto una flessione di quasi il 33%, questo mese saremo un meno 25%, e se non ci fosse stata la pausa delle prime due settimane avremmo avuto un numero certamente anche più elevato. Superiore, certo. A questo punto gli ordini hanno proceduto in parallelo con intensità tale da accumulare presso i concessionari un portafoglio di nevasi di alcune decine di migliaia di unità che beneficia marzo, che a questo punto sarà, è la mia opinione, il primo mese di questo tribolato 2009 che si porterà verso le 200.000 unità. Non sarà ancora un segno più rispetto all'anno scorso, ma certamente non avremo più dei segni negativi come dicono gli analisti, tra i quali io mi considero a due cifre. Vedremo se ha ragione ancora una volta. Ci sentiamo allora alla fine di marzo, i primissimi di aprile, per capire che cosa è successo. Speriamo che davvero la primavera porti con sé buone notizie anche nel settore auto. Grazie al professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore. Professore, buona serata. A presto, risentirci. Allora, grazie al professor Malagodi, e adesso ci occupiamo della nostra inchiesta. Assicurazioni online, vi avevo promesso tutta una serie di partecipanti, siamo già alla terza puntata. Quixa è stata la prima, poi Direct Line la seconda, oggi Zurich Connect è ospite di Radio 24 per farsi conoscere, far conoscere il proprio prodotto e soprattutto rispondere ai tre profili, ai tre preventivi che chiediamo uguali per tutti. Intanto grazie della presenza di Andrea Rapetti, il Managing Director di Zurich Connect Italia. Buonasera. Grazie a lei, buonasera Razia e buonasera a tutti gli ascoltatori. Direttore, senta, partiamo subito dalla definizione. Io mi ricordavo di Zuritel, che cosa è cambiato? Zuritel effettivamente è il marchio con cui questa compagnia ha operato in Italia per più di 10 anni nel settore del diretto, quindi tutto sommato per chi conosce questo settore è piuttosto noto. Nel ottobre del 2008 Zurich Connect ha preso il testimone di Zuritel in Italia, allineandosi a quella che è la strategia di marchio del gruppo Zurich in tutta Europa. Quindi un nuovo nome per una compagnia però che ha una lunga tradizione qui in Italia. Intanto fa parte di che gruppo e ci racconta come siete sviluppati in questi 10 anni in Italia? Ma Zurich Connect, insomma, il nome lo richiama facilmente, appartiene al gruppo Zurich, che probabilmente non ha bisogno di grandissime presentazioni perché è un gruppo leader nel mondo, ma forse più importante, molto conosciuto credo al pubblico italiano perché è qui in Italia da più di 120 anni e poi comunque ha sempre avuto una certa presenza anche televisiva. Quindi Zurich è il grande gruppo che c'è, che è la casa di cui noi facciamo parte. Zurich Connect invece è il marchio con cui questo gruppo anche in Italia da ottobre dell'anno scorso opera nel mercato diretto. Zuritel, come le dicevo, e ora Zurich Connect, ha una tradizione ormai più che decennale, è partita quando questo mercato è partito, con il nuovo marchio ha anche, diciamo così, attraversato un anno di rilancio importante, con anche dei risultati piuttosto soddisfacenti in un momento in cui il mercato, insomma, non è proprio dei più facili. Soffre tutto il mercato. Com'è andato il vostro 2008? So che le cifre non sono ancora ufficiali, le aspetteremo, però ce le fa capire, intuire? Beh, insomma, noi abbiamo registrato una crescita importante, del tutto in controtendenza, diciamo così, al mercato auto. Credo che questo sicuramente è stato possibile grazie a quello che abbiamo fatto per farci conoscere e per far conoscere al mercato questo passaggio tra Zuritel e Zurich Connect, ma anche a una serie di novità, di innovazioni che sono state molto ben accolte dal pubblico. Gliene cito solo una che forse è in qualche modo molto rappresentativa. Abbiamo introdotto sul mercato un nuovo prodotto che chiamiamo Blu Casco, siamo gli unici nel diretto a venderlo, che offre ai nostri clienti la possibilità di comprare una casco che ha un limite di indennizzo a 3.000 euro e questa sua caratteristica rende il prodotto casco abbordabile, molto facilmente acquistabile e consente di avere una copertura anche quando si ha torto, può capitare. Fino anche, a 3.000 euro quindi? Fino a 3.000 euro, come ha ben anche rappresentato Quattro Ruote, mi sembra, in un numero l'anno scorso. Oggi spesso riparare l'auto costa quasi come valore commerciale. Sì. Portarla in carrozzeria diventa caro davvero. È una sorta di mini casco, interessante. Allora, la nostra inchiesta prevede che anche voi rispondiate a tre profili, tre preventivi quindi che vi chiediamo, senza scontistica, se poi c'è una scontistica la si mette a parte, per capire i premi assicurativi per l'RC Auto di queste tre persone. Le leggo il primo profilo: quarantenne, uomo, residente a Milano, è un libero professionista, con la sua BMW X5 3000 diesel catalittica del 2005. La classe di provenienza è la 12ª, quindi al prossimo rinnovo entra nell'11ª, la guidano tutti tranne i giovani sotto i 26 anni, anche per voi massimali sono di almeno 1,6 milioni di euro. Quanto costa assicurarsi con Zurich Connect? Il prezzo RC Auto senza promozione per questo profilo è di 903 euro. Sì. Con la promozione che arriva fino al 15%, se si mette in abbinata con un'altra garanzia come l'incendio furto alla Blu Casco, si può arrivare a 808. Ecco, quindi da 903 a 808, se però si compra un altro prodotto assicurativo, furto Blu Casco. Molto bene. Allora, profilo B. Ci spostiamo in centro Italia, Roma. Direttore, per una 60enne donna casalinga con la sua Panda 1100 benzina del 2006, la classe di provenienza è la 5ª, sono tanti anni che guida senza incidenti, la guidano tutti tranne i giovani sotto i 26 anni, le sottolineo che finora gli altri due vostri competitor su questo profilo hanno dato dei tre profili la cifra minore, credo sia anche il vostro caso. Quanto le facciamo spendere? In questo caso, senza promozione, 437 euro. Con la promozione, che insomma per un'auto di 2 anni consiglieremmo, cioè quindi coprendo anche rischi diversi dalla sola RC Auto, arriviamo a 391. Molto bene, chiudiamo col profilo più difficile, il 18enne uomo residente a Palermo, studente, per una Ford Fiesta 1200 benzina del 2008, classe di provenienza è la sua prima auto, quindi 14ª con legge Bersani, eppure senza, quindi con legge se c'è un papà in classe prima, per esempio. Le due cifre, ci salutiamo. Nel primo caso, cioè con legge Bersani, siamo a 2055 euro. Nel secondo caso, senza legge Bersani, siamo a 3.385. Poveri siciliani giovani, guardate che cifre, è una cosa, è uno stillicidio, ma è normale, è giusto così, il profilo era stato studiato per mettere poi in evidenza alcune incongruenze che non sono colpe di assicuratori, ma in qualche modo derivano anche dai comportamenti di guida regionali e dai tanti incidenti che ci sono in certe zone, dall'incidentalità di certi profili. Grazie davvero per ora a Zurich Connect Italia, Andrea Rapetti è stato con noi, a prestissimo. Grazie e complimenti per l'iniziativa. Grazie a voi e buon lavoro soprattutto. Chiudiamo la nostra trasmissione con l'avvocato Erika Lievore di Milano. Avvocato, buonasera, bentornato. Buonasera a lei. Senta, avvocato, qui ci piovono le domande alla mail 4ruote@radio24.it per voi e noi le segnaliamo, le selezioniamo. Questa volta gliene ho girata una due giorni fa di Giovanni che ci dice di essere stato multato perché aveva il fax di un contrassegno in macchina invece dell'originale. Quindi, come sempre facciamo con lei, imbracciamo il codice della strada e cerchiamo di capire quali sono le norme o la norma che regola questo comportamento, i documenti da tenere nell'abitacolo. Avvocato. Allora, partiamo innanzitutto con l'articolo 180 del codice della strada, il quale ci dice esattamente che per poter circolare con un veicolo al motore il conducente deve avere con sé la carta di circolazione innanzitutto, sì. Secondariamente la patente di guida valida per la categoria di veicolo che sta conducendo, terzo il certificato di assicurazione obbligatorio il cui contrassegno va anche esposto nella parte anteriore del veicolo secondo quanto prevede l'articolo successivo del codice della strada. Ecco, ci sono alcune sanzioni, ci fa capire che cosa dice il codice a proposito delle sanzioni per chi non detiene uno di questi documenti? Sì, sempre l'articolo 180 prevede infatti che chi viola questa norma, quindi non ha con sé uno di questi documenti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da 36 a 148 euro. A cui si aggiunge un'ulteriore sanzione da 22 a 88 euro qualora, trattandosi di mancanza del certificato di assicurazione obbligatoria, si viola anche quello che dicevamo essere l'articolo 181, quindi l'obbligo di esposizione del contrassegno. Ecco, ricordiamo che per l'assicurazione non è solo obbligatorio esporre il tagliandino, quello che si ritaglia e si mette sul parabrezza, ma bisogna avere anche nel cruscotto ben custodito l'altra parte che l'assicuratore ci consegna. E l'ascoltatore che invece aveva in auto la copia fax, quindi o il fax dell'assicuratore o una copia, una fotocopia del documento, è giusto che sia sanzionato o meno? Allora, è giusto perché l'esibizione del fax che comunque riproduce fedelmente il contenuto del documento, secondo una sentenza del 2007 della Corte di Cassazione, viene parificato comunque all'omessa detenzione, quindi si incorre inevitabilmente alla sanzione che abbiamo detto. In tutti i casi in cui vi sia un'omessa detenzione di uno di quei documenti citati, l'accertatore della violazione rilascia comunque al conducente un invito formale dell'autorità a presentarsi entro un termine stabilito nell'invito, che di solito è di 30 giorni, agli uffici della polizia per esibire quello che è il documento in originale rispetto al fax o comunque il documento che si è dimenticato eventualmente. Quindi chiunque poi, senza giustificato motivo, non ottempera a questo invito di presentarsi, incorre in una sanzione che viene poi maggiorata da 370 a 1485 euro. Se in ogni caso dai documenti esibiti in visione emerge che al momento del controllo il veicolo in ogni caso non era coperto da assicurazione, per esempio perché si è effettuato il pagamento del premio dopo i 15 giorni della scadenza, verrà ovviamente un'altra norma, vale dire il 193 del codice della strada, che prevede l'obbligatorietà della copertura assicurativa, certo, in questo caso. 30 secondi in chiusura per capire se il bollo auto vada esposto o meno. Il contrassegno della tassa automobilistica, quindi il bollo dal 1998, non deve più essere esposto, infatti anche i bollettini di pagamento della tassa hanno solo la ricevuta del versamento che il proprietario del veicolo deve custodire per almeno 3 anni. Entro 3 anni infatti la Regione potrà disporre degli accertamenti sull'avvenuto pagamento di questa tassa. Il conducente quindi dei veicoli non devono avere al seguito questa ricevuta del pagamento, come invece sappiamo devono avere i conducenti dei ciclomotori, ma potranno essere invitati in ogni caso a esibirla in un secondo momento. Grazie, avvocato Lievore, precisa come sempre, la raggiungete attraverso la nostra mail 4ruote@radio24.it. Buona serata, grazie. Grazie, buona sera a lei, suoi ascoltatori. Con la sua voce termina anche la nostra trasmissione, torna puntuale sabato prossimo, ore 21, qui su Radio 24. 4ruote@radio24.it. Da Valeria Bernardi in regia, da Roberto Rasia in voce, a presto, buona serata e soprattutto buona guida.